seguirà in rossa. Io parlerò non in senso storico della né di Rosa Luxemburg né degli spartachisti, tantomeno della rivoluzione spartachista, quanto di quello che in Rosa Luxemburg possiamo cogliere di attuale, di utile ai tempi di oggi e non solo, da qualche tempo, sicuramente da quando anche nell'analisi marxiana si parla di neocapitalismo, di come affrontarlo e quindi perlomeno dal secondo dopoguerra. Una piccola precisazione su quello che diceva Bob a proposito della socialdemocrazia al governo, che la guerra dà quest'occasione, la prima guerra mondiale dà quest'occasione delle socialdemocrazie, perché è più d'una, come diceva Bobbo, che va al governo. Beh, la stessa cosa si ripete in qualche modo anche dopo la seconda guerra mondiale, no? Quindi c'è un elemento di continuità con la guerra, i socialdemocratici o quello che comunque impersonificava in quei momenti la sinistra va al governo, perché questo sarebbe bello rifletterci, ma ci porta da un'altra parte: c'è l'ideologia del lavoro, c'è la necessità della ricostruzione, e chi più dei partiti di sinistra è in grado di convincere le masse lavoratrici che, nonostante i sacrifici, le morti della guerra, ora la ricostruzione nazionale è il compito prioritario. E quindi c'è un reciproco uso e della socialdemocrazia e del capitale nel portare proprio al governo queste forze, che si guardano bene dal dire ai propri iscritti, ai propri simpatizzanti, alle masse, che si tratta di ricostruire l'ordine capitalista pari pari, perché è vero che la guerra ha distrutto le infrastrutture, i porti, le case, le ferrovie e tutto quanto, ma non ha distrutto la struttura del capitale nelle banche, tantomeno la proprietà, eccetera eccetera. Quindi questo è sicuramente un elemento che si ripete, no? Per questa ideologia del lavoro e della ricostruzione del bene del paese, che oggi poi si parla tantissimo di popolo indistintamente, senza mai specificare e quindi annacquare completamente le contraddizioni di classe. Questo per cosa a me viceversa serve per parlare di quello che a me sembra più significativo di Rosa Luxemburg, e cioè due aspetti. Uno è il suo contributo all'analisi marxiana e l'altro il contributo al processo rivoluzionario. Il primo aspetto rimanda a certi scritti di Rosa Luxemburg, in particolare l'introduzione all'economia politica e soprattutto l'accumulazione del capitale, in cui Rosa Luxemburg riprende quello che è l'argomento, uno degli argomenti principali del secondo libro del Capitale, che lei stessa dice, e lo dice con una prosa, vi invito a leggerlo, insomma Rosa Luxemburg c'ha una prosa scorrevolissima, si fa capire molto più di Marx, anche se semplifica alcuni passaggi, ma lo fa scientemente, non è nella sua natura, ma lo fa scientemente, perché vedo che già dissente qui il compagno, non so, poi mi spiegherà perché, lo fa scientemente perché, pur avendo diretto la scuola di partito, da questo punto di vista lo fa scientemente perché vuole arrivare a una diffusione quanto più comprensibile delle opere di Marx, e riprende questi ragionamenti avendo delle intuizioni notevoli. Perché intanto sull'accumulazione dice una cosa molto semplice rispetto a quello che era lo schematismo concettuale derivato proprio dal secondo libro, che Marx non aveva completato. E cioè lo schematismo concettuale era che l'accumulazione non è una produzione di montagne di merci sempre più crescenti, dice Rosa Luxemburg, ma è trasformare sempre più merci in capitale monetario. E questo a lei fa, con una lunga spiegazione che non sto qui ovviamente a riprendere, fa supporre, venire in mente l'idea stessa di mercato, ovvero della, e soprattutto del mercato mondiale, cioè dell'espansione della sfera di circolazione delle merci, e quindi c'è tutto il discorso sul, sul colonialismo e così via, perché è solo in questo modo che si rimette in moto, secondo il suo punto di vista, la circolazione e l'accumulazione del capitale. E l'allusione al mercato mondiale è un'anticipazione assoluta, infatti non fu accolta bene, insomma, no? Fu molto criticata da questo punto di vista, si innestò un grandissimo dibattito. Ovviamente cosa non coglieva, per esempio, in questo Rosa Luxemburg? Che ne immaginava intanto un ampliamento lineare verso paesi terzi, ma in questa linearità non aveva colto che viceversa, per esempio, lo scambio, c'era non solo un allargamento come base della circolazione delle merci, ma c'era un'intensificazione degli scambi tra i paesi già sviluppati, quindi non è solo un discorso di aprire una finestra sul centro dello sviluppo capitalistico e le periferie del mondo, ma è che il centro dello sviluppo capitalistico in questa dimensione aumenta anche fra sé e sé lo scambio commerciale, quindi l'intensificazione degli scambi. Questo non era stato colto, ma viceversa. L'altro aspetto è sicuramente l'imperialismo. Allora, Lenin scrive nel 1916, mi sembra, Imperialismo, fase suprema del capitalismo. Rosa Luxemburg lo scrive nel 12, torna a quegli anni lì dell'imperialismo, e comincia ad analizzarlo soprattutto dal punto di vista dell'armatismo, ovvero della sempre più incidenza non solo dell'esibizione della forza, quindi dell'uso della forza delle armi, che lei dice è connaturato a che cosa? Sia alla politica sia all'economia, il militarismo in quanto tale, dice, è sia espressione politica che economica. Politica come forma e strumento della concorrenza, perché attraverso il militarismo io impongo ad altri stati, ad altre società, ad altri popoli la produzione, quindi il modello capitalistico, lo scambio, come, dal punto di vista economico, come settore di accumulazione in sé, cioè la produzione di armi, lei la colloca, comincia a collocarla direttamente come settore che produce accumulazione di ricchezza, perché la produzione di armi è non solo funzionale all'imperialismo, perché come elemento di aggressività, di dominio, eccetera, eccetera, ma produce ricchezza in sé. E questo è un altro spunto di cui oggi siamo completamente immersi, no, in questa dimensione, perché quando parliamo delle fabbriche di armi e compagnia bella, ci poniamo direttamente. Abbiamo direttamente davanti direttamente questo problema. Ancora sull'imperialismo, scusate, vado un po' così, ma non c'ho il computer come Bobbo, io ho ancora i pezzi di carta, quindi sull'imperialismo e in particolare sull'internazionalismo ci sarebbe tantissimo da dire, soprattutto in quel periodo dove la seconda internazionale altro era fuorché veramente un'organizzazione che badasse all'internazionalismo. La posizione massima che esprimeva era di un atteggiamento negativo, di dire no a certe cose, non aveva mai in mente, viceversa, e lei lo rimarca in modo abbastanza netto, un internazionalismo di carattere attivo, cioè non solo di dire no a quelle che erano le politiche imperialiste dei vari stati, ma dire sì, ovvero prodigarsi, mobilitarsi in sostegno delle lotte internazionali del proletariato in ciascun paese. Questo mancava assolutamente e lei comincia a porselo. Vedremo che nel porsi questo annulla completamente anche la sua dimensione personale da ebrea polacca, che si era poi trasferita in Germania, si era iscritta a un partito comunista tedesco, e fa delle critiche, in particolare, salto molto, scusate perché il tempo è quello che è, a proposito della rivoluzione bolscevica, di cui, quella del 17, di cui tanto si dice, dei contrasti Lenin, Rosa Luxemburg, eccetera, che andrebbero storicizzati rispetto a quel periodo e soprattutto, insomma, non enfatizzati come spesso avviene, perché poi, insomma, è uno scambio molto dialettico. Comunque, una critica specifica che fa e che rimanda al problema dell'internazionalismo è esattamente questa, cioè quando nell'avvento della pace di Brest-Litovsk, Lenin e gli altri bolscevichi, per accattivarsi parte delle minoranze etniche che facevano parte comunque della Russia, promettono, e quindi per disinnescare la forza dell'imperialismo tedesco, che ancora c'era e non era affatto, diciamo, scomparsa, promettono che cosa? Un referendum sulle autonomie locali, potremmo dirle oggi, e cioè richiamando al discorso dell'autodeterminazione dei popoli o delle minoranze, in quel caso si trattava di polacchi, di ucraini, di lituani, eccetera, eccetera. E facendo questo, che Rosa Luxemburg critica fortemente, e le parole d'ordine furono in particolare lanciate sia da Lenin che da Trotsky, e per ottenere appunto la pace a Brest, un referendum sull'appartenenza statale delle nazionalità non russe, e cioè e questo che cosa ha portato poi successivamente? Ha portato che questi nazionalismi, fino agli anni della seconda guerra mondiale, ma anche prima sotto il nazismo, hanno dato vita attraverso le borghesie nazionali, perché di queste tematiche se ne appropria comunque la borghesia, le singole borghesie nazionali, hanno portato alla formazione di organizzazioni fasciste, naziste, eccetera, eccetera, che in base alla rivendicazione etnica, linguistica, culturale, eccetera, eccetera, hanno minato quella che doveva essere viceversa un'unità del proletariato. A me viene in mente, pari pari, quando si parla di autodeterminazione oggi, e lo usiamo spesso, per esempio nel caso dei palestinesi, per esempio, ma non ugualmente, nel caso dei curdi o di altre popolazioni ristrette e effettivamente sottoposte a un certo dominio. Può essere improprio, ma c'è, insomma, ma quando arriviamo a usarlo per situazioni tipo la Catalogna, a me vengono i brividi, perché anche per la Catalogna, no? Per le lotte della Catalogna si è sentito parlare di autodeterminazione. Insomma, e qui in questo vedo una sua attualità di critica, di riflessione critica, che ve le voglio citare in due brevissime, qui parliamo soprattutto di, uno è della, è in uno scritto che parla della questione nazionale, in cui critica esattamente queste posizioni, anche prese anche dai bolscevichi, in prossimità della pace di Brest-Litovsk, e fa un elenco lunghissimo delle questioni nazionali che esistono al mondo, e dice: da ogni parte si presentano nazioni e nazioncini ad accampare diritti di costituirsi Stato, cadaveri riammodernati escono da sepolcri centenari, infusi di nuovo impulso primaverile, e popoli privi di storia che non avevano prima d'ora costituito organizzazioni statali autonome provano una violenta inclinazione alla formazione di stati. Polacchi, ucraini, russi, bianchi, lituani, cechi, jugoslavi, 10 nuove nazioni del Caucaso. I sionisti fondano già il loro ghetto palestinese provvisoriamente a Filadelfia. Pensate, lei è ebrea e dice già a Filadelfia, perché c'era stato un ebreo a Filadelfia nell'Ottocento che si chiamava Mordecai Manuel Noah, che aveva pensato, in attesa della terra promessa, di creare un piccolo stato ebreo addirittura in America, e lei lo richiama dicendo il ghetto palestinese, non immaginando, poveretta, che poi il ghetto ci sarebbe stato veramente, ma per i palestinesi. Lì il riferimento è che gli ebrei si andavano ad autoghettizzare in Palestina comunque, ma nel frattempo però se lo facevano negli Stati Uniti questo piccolo ghetto. Quindi con una, direi, una forza di non solo previsione, ma di autoannientamento della propria identità, in questo caso come ebrea, molto forte. E un'altra ancora che voglio citarvi è da una lettera, viceversa, che scrive a Tilde Wurm nel 17, la quale evidentemente gli aveva parlato degli ebrei, del problema degli ebrei. Dice: dove vuoi giungere con le particolari sofferenze ebraiche? Mi sono altrettanto vicine le povere vittime delle piantagioni della gomma a Putumayo, i negri d'Africa con cui corpi gli europei giocano a palla. Ricordati ancora le parole dell'opera dell'alto comando sulla campagna di Trota nel Kalahari. Dice: e il rantolo dei morenti, il grido delirante degli assetati si perdevano nella sublime quiete dell'infinità, o questa sublime quiete dell'infinità nella quale tante grida si perdono inascoltate. Essa risuona in me con tale forza che non mi rimane in cuore alcun cantuccio particolare per il ghetto. Mi sento di casa in tutto il mondo, dovunque siano nuvole e uccelli e lacrime di uomini. Quindi non c'è dubbio che abbia, diciamo, nella sua vita personale e nei suoi scritti politici posto il tema dell'internazionalismo proletario come nessun altro era riuscito a fare fino a quel momento. Ultimo argomento, quello che riguarda il suo apporto al processo rivoluzionario. Qui vale soprattutto un accenno, frammenti, a quella che lei non sistematizza come analisi delle classi sociali, ma ci fa dei riferimenti, fa degli approcci, e soprattutto questi approcci vengono fuori, queste suggestioni vengono fuori, queste intuizioni vengono fuori allora quando parla dello sciopero di massa, in contrapposizione o perlomeno in alternativa a quello che fino allora era considerato lo sciopero generale, soprattutto quasi secondo lo schematismo della Seconda Internazionale preinsurrezionale, o quasi come sciopero generale, come forma ultima di insurrezionale o preinsurrezionale. Lei vi oppone lo sciopero di massa politico. Che cos'è questo sciopero di massa politica e come lo giustifica? Lo giustifica intanto perché, avendo in qualche modo intuito questa dimensione sovranazionale del capitalismo, questo andarsi a creare del mercato mondiale, questo di conseguenza comportava, dal punto di vista dell'analisi delle classi, che non c'era solo un rapporto, che il rapporto capitale-lavoro primo non si esauriva nella fabbrica, e quindi che cominciava già a porsi un problema di una sussunzione generale di altre forme di lavoro che non fossero necessariamente quelle operaie, riconducibili a quella classica del lavoro di fabbrica, ma che cominciavano evidentemente a venire fuori, e che quindi c'era, oltre quella contadina, anche una massa di proletariato non organizzato, laddove per non organizzato, lei dice, ancora non si intende o non sindacalizzato o comunque non politicizzato secondo gli schemi tipici del Partito Socialdemocratico, ovvero non influenzati dalle tematiche del Partito Socialdemocratico, perché appunto il Partito Socialdemocratico si rivolgeva soprattutto agli operai di fabbrica, perché questo era lo schema, e questo schema fino al 1905 non viene messo in discussione. Ce l'hanno tutti, ce l'ha anche Lenin. Io vorrei che questo, insomma, mi sembra un grosso elemento di discussione che spesso vedo sfuggire da questi riassunti, perché fino al 1905, cioè la rivoluzione dei Soviet in Russia, si pensava che lo schema era prima la rivoluzione borghese e poi quella proletaria. Mai nessuno avrebbe pensato che poteva darsi una rivoluzione proletaria da sé e per sé, come è stata comunque quella del 1905. E questo ha scompaginato tutto, non solo il punto di vista del partito, il suo ruolo, la sua la sua funzione, ma ha scompaginato anche l'analisi delle classi, perché quello che c'era nei Soviet non era squisitamente ed esclusivamente una composizione operaia, tutt'altro. Poi in Russia, in Germania era già diverso, insomma, no? Dimensione di fabbriche molto più grande di quella che c'era in Russia, eccetera, eccetera. Bene, questo lei lo intuisce e lo pone proprio come sciopero di massa, con questo slogan, sciopero politico di massa, perché in questo sciopero politico di massa ci sono gli elementi per una ricomposizione di carattere sociale tra strati di proletariato differenti, non esclusivamente quello di fabbrica, ma altre forze, altri strati di proletariato che non sottostanno a quelle regole, ma che sono comunque in una condizione ovviamente di sfruttamento, eccetera, eccetera, e che anche loro cercano la loro strada per venirne fuori, la loro strada di emancipazione. Quindi lo sciopero di massa è questo, come prefigurazione, dice lei, anche non solo di ricomposizione del momento economico e politico, perché dice il socialismo, lei aveva in astio, proprio in odio, una concezione economicistica del socialismo, diceva il socialismo è soprattutto un cambiamento radicale politico, è una struttura politica il socialismo, e viceversa quello che abbiamo sentito prima, no? Che raccontava Bobbo, che cosa pensavano i socialdemocratici, all'economia ci pensa il capitale, e tanto ci pensa lui da solo a sistemare le cose da un punto di vista economico, perché rivoluziona sempre se stesso, perché è in grado, anzi ci fa tutto il lavoro lui, noi dobbiamo solo metterci sopra una direzione politica. Lei dice no, non è così, non ne veniamo a capo, siamo in coda, siamo a rimorchio di questa situazione. La rottura deve essere ovviamente sulla proprietà, sui cardini del sistema, ma deve essere di carattere politico e le masse devono appropriarsene. Finisco. Questo che cosa, ho abbreviato molto, ma insomma il tempo è quello che è, questo che cosa gli fa venire, gli fa crollare addosso? L'etichetta di spontaneista. Perché in questo appellarsi alle masse, soprattutto quelle non organizzate e quindi non inquadrate nel senso buono, non in senso cattivo, inquadrate politicamente perché seguono gli schemi del Partito Socialdemocratico o di altri partiti, ma insomma la maggioranza era quelli a quel tempo, vedono e criticano in lei questo atteggiamento di carattere spontaneista. Allora, siccome tra l'altro io vengo da un'esperienza che è stata a suo tempo in un libro famoso, che è quello L'Orda d'Oro di Nanni Balestrini e Primo Moroni a cura di Sergio Bianchi, che è un volumone di 600 pagine, dove si parla a un certo punto e per poche righe su tutto il volume dei comitati autonomi operai di Roma, i Volsci, si dice i comitati autonomi romani aggregati intorno alla gente di via dei Volsci sviluppavano una tematica fortemente spontaneista, erede di una impostazione lussemburghiana. Voi capite che messa così sembra quasi, anche per la povera Luxemburg, una denigrazione, no? Sei spontaneista lussemburghiano, insomma ti metto già da parte. E questo, guardate, siamo negli anni 90 del secolo scorso, insomma, non stiamo parlando di chissà quanti anni fa, cioè fino a oggi ancora, non so come chiamarla, la lobby operaista in qualche modo, che ha fatto agio su molte interpretazioni della situazione passata e presente, ha messo da parte tutte altre, non solo figure come la Luxemburg o altri che hanno dato grandi contributi alla causa, diciamo così, ma soprattutto ne ha messo da parte il portato, il significato, l'esperienza, l'analisi, perché quello che in fondo hanno ereditato anche gli operaristi, ma su questo non ci stanno, io mi trovo sempre in difficoltà con loro, è proprio quello della Seconda Internazionale, è proprio quello della socialdemocrazia tedesca, che comunque era operaista, sono sempre stati operaisti. E lo scarto, di nuovo, se non ci fosse stato il 1905, staremmo ancora a ragionare con quei criteri là, perché non c'è verso di farglielo cambiare, non c'è verso di fargli capire che nella rivoluzione totale che il capitale fa continuamente, ha rimescolato tutto e ha inventato, avendo sussunto tutto, ma non nelle forme tipiche del fordismo, dell'operaio massa, del taylorismo, di quello che volete. Le ha sussunte e basta, in qualsiasi forma gli pare. E oggi questo l'ha fatto in una maniera fantastica, per cui tutte le concezioni precedenti sul fatto che una figura sociale trainante ci dovrebbe essere, senza di quella non siamo più venuti a capo di niente, perché è morta la figura dell'operaio massa e poi di altre definizioni sempre di carattere operaio, qui non si sia prodotto più niente. E viceversa, il compito che ci pone il capitalismo dalla seconda guerra mondiale in avanti, e soprattutto sicuramente dagli anni 70 in avanti, quando la ricostruzione del saggio di profitto, dell'accumulazione era stata fatta col sacrificio, il lavoro eccetera eccetera, è quella di capire che qui c'è da vedere, inquadrare e pensare una ricomposizione, perché le figure se sono state moltiplicate, spezzettate e frammentate, pur vivendo tutte quante non la classica storia dell'operaio di fabbrica, taglioristica eccetera eccetera, ma vivendo una condizione operaia. Sì, viviamo ancora molti una condizione operaia, la maggioranza, anche se fanno dai cascherini che portano le pizze, che si chiamano rider, oppure fanno gli informatici, in una parcella di lavoro del ciclo complessivo fanno questo e vivono probabilmente una condizione operaia, ma non sono operai, non sono quegli operai e neanche operai più moderni. E questo però non c'è verso di farlo capire, e viceversa quello che Rosa Luxemburg aveva intuito anche da questo punto di vista è stato tacciato di spontaneismo, perché lo spontaneismo per lei, secondo i suoi detrattori, era quello di affidarsi così indistintamente e inconsciamente alla vitalità delle masse, come se fosse una sorta di pietrigrotta permanente per cui si agitano tutti e fanno casino. Non è così, perché poi Rosa Luxemburg pensava costantemente, e lei stessa era uno dei cardini dell'organizzazione comunista e rivoluzionaria.